No, non è il modo di fare. Non ha educazione, né raffinatezza, no, niente di niente, per natura. Quel darci quegli sculaccioni sul di dietro, come a me, perché non l'ho chiamato Hugh? Un ignorantone che non distingue la poesia da un cavolo. Ecco che cosa si guadagna a non farli stare al loro posto, a levarsi scarpe e calzoni lì sulla seggiola davanti a me, faccia di corno, senza neppure chiedere il permesso, e lì abbincorito in quel modo, con quella loro mezza camicia a farsi ammirare come un prete, un macellaio, o come quei vecchi ipocriti del tempo di Giulio Cesare. Certo, ha ragione, a suo modo, per passare il tempo per scherzo. Sicuro, come andare a letto con non so che cosa, un leone per esempio. Dio, sono sicura che può far di meglio un vecchio leone. Certo che lo farebbe. Oh, beh, mi sa che era stato per via che erano così tonde e alluzzanti nella sottoveste corta. Non ha saputo resistere. Mi accito anch'io qualche volta. Figurati gli uomini, tutto quello che possono cavare di piacere dal corpo di una donna. Così tonde e bianche per loro. Ho sempre avuto voglia di diventare uno di loro, tanto per cambiare, provare a sentirsi gonfiare addosso quel loro aggeggio così duro e al tempo stesso così morbido quando si tocca. Mio zio Gastone ce l'ha lungo come un bastone, l'ho sentito da quei ragazzacci all'angolo di Marylebone Lane. Mia zia Rosa ce l'ha tutta pelosa, perché era buio e sapevano che passava una ragazza, ma io non arrossii mica, perché madre natura dopo tutto. E lui mette il suo bastone dentro la cosa pelosa della zia Rosa, eccetera. E la soluzione del Busilli sa mettere il manico alla granata. Gli uomini, sempre loro, possono prendersi chi gli pare. Una donna sposata, o una vedova scollacciata, o una ragazza a seconda dei gusti, come in quelle case là dietro Irish Street, no? Ma noi dobbiamo restare sempre alla catena. Ma a me non mi incatena nessuno. Non c'è caso, se mi ci metto io sto tranquillo, malgrado la loro gelosia di mariti cretini. Perché non si può rimanere buoni amici, invece di leticare per questo? Suo marito ha scoperto quel che hanno fatto insieme. Beh, naturale, se l'ha fatto, non lo può disfare, è coronato. In tutti i modi, faccia quel che gli pare. E poi arrivo all'altro estremo di pazzia. Per quella moglie in belle tiranne, l'uomo è naturale, non si ferma a pensarci su due volte al marito o alla moglie. Vuole la donna e se la prende. Per quale altro motivo ci ha dato tutte quelle voglie? Mi piacerebbe saperlo. Non ci posso far nulla se sono ancora giovane, è vero. È un miracolo se non sono diventata una vecchia strega rugosa avanti tempo a vivere con lui. Così freddo, non mi abbraccia mai, se non qualche volta quando ha sonno. Da quell'altra parte, senza neanche sapere, credo, con chi sta. Se un uomo è capace di baciare il sedere di una donna, non ne darei due soldi. Sarebbe capace di baciare qualsiasi cosa, fuori delle grazie di Dio, dove tutti quanti non abbiamo un atomo d'espressione di nessun genere. Sempre le stesse due bozze di lardo. Io, piuttosto che farglielo a un uomo, ah, porcaccioni che non sono altro, viene da vomitare solo a pensarci. Le bacio i piedi, signorita. Almeno c'è senso in questo. O non ha baciato la porta dell'ingresso? Sì, davvero, pazzo furioso. Nessuno conosce le sue idee storte, eccetto me. Però si capisce, una donna vuole essere abbracciata 20 volte al giorno, quasi, per farla sembrare giovane, non importa da chi, finché si ama e si è riamate da qualcuno, se quello che si vorrebbe non c'è. Qualche volta, per Dio santo, ho pensato di andare in giro lungo il fiume in qualche serata buia, dove nessuno mi conosce, e prendermi un bel marinaio appena sbarcato, che ne avrebbe una voglia matta e che si infischierebbe di chi ero e di chi non ero. Farlo da qualche parte, in un portone, o uno di quegli zingari dall'aria selvaggia di Rathfarnham che avevano piantato le tende vicino alla lavanderia Bloomfield per cercare di rubarci la nostra roba se ci arrivavano. Io ci ho mandato la mia poche volte, per il nome. Lavanderia Modello. Mi ha rimandato più di una volta le calze scompagnate di qualche vecchiaccia. Quel tale con quella faccia da farabutto e quei begli occhi. Temperava un bastoncino. A salirmi al buio e cavalcarmi contro il muro senza aprir bocca. O anche un assassino, non importa. Anche quei bei signori col cilindro non fanno la stessa cosa. quel cavaliere del regno che abita da queste parti e che usciva da Hardwick Lane la sera che lui ci aveva offerto quel pranzo a base di pesce perché aveva vinto quell'incontro di pugilato. È naturale, lo fece per me. L'ho riconosciuto dalle ghette, dal modo di camminare. E quando mi voltai un momento dopo per vedere, c'era anche una donna che usciva di là, qualche sporca puttana. E poi lui va a casa dalla moglie, dopo aver fatto quel che ha fatto. Però credo che la metà di quei marinai siano marci di malattie. Oh, scosta un po' quella tua carcassa, per amor di minchio, statela a sentire. Verranno a te sull'aura i miei sospiri ardenti. Dorma e sospiri pure il grande illusionista Don Poldo della Flora. Se sapesse cosa hanno detto di lui le carte stamani, avrebbe da sospirare per un uomo nero che si trova nell'imbarazzo tra due sette, anche in prigione. Per Dio sa cosa che lui almanacca, e io non so. E poi dovrei strascinarmi giù in cucina a preparare la colazione a sua signoria, mentre lui se ne sta imballato come una mummia. Vero, mi ci vedete a correre, mi piacerebbe vedermici. Usa loro delle attenzioni e ti trattano come cani. Non importa di quel che si dice. Sarebbe meglio per il mondo se comandassero le donne. Non ce le vedreste le donne ad ammazzarsi a vicende, a scannare. Quando mai si vede una donna in giro, ubriaca, come fan loro, a giocarsi la camicia e a buttar via i soldi per i cavalli? Sì, perché una donna, qualsiasi cosa faccia, sa dove fermarsi. Certo non sarebbero al mondo se non ci fossimo noi. Non sanno cosa voglia dire essere donna e madre. Come farebbero? Dove sarebbero andati a finire tutti quanti sono, senza una madre che si curi di loro? Quel che non ho mai avuto io. E per questo credo che lui ora scappa via a folleggiare la notte, piantando i libri e lo studio, e non vivi a casa per via delle continue liti. Beh, è una disgrazia, quando si ha un così bravo figliuolo, non esserne contenti. E io, nessuno, non è stato capace a farne uno. Non è stata colpa mia. Venimmo insieme, quando guardavo quei due cani addosso alla cagna, perdii dietro, in mezzo alla strada deserta. Mi ha scoraggiato del tutto, credo sia stato questo. Non avrei dovuto seppellire con quel golfettino di lana che avevo fatto piangendo, ma darlo a qualche bambino povero. Ma sapevo benissimo che non ne avrei avuto un altro. È stata la nostra prima morte, tra l'altro. Non siamo più stati gli stessi da allora. Oh, non ci devo più pensare. Mi vengono le malinconie. Chissà perché non è voluto rimanere per la notte. Sentivo che era una persona strana che aveva portato, invece di vagabondare per la città a incontrare chissà quali taccheggiatrici e borsaioli. A sua madre dispiacerebbe se fosse viva. Forse si sta rovinando per tutta la vita. Però è una bell'ora, così tranquilla. Mi piaceva tornare a casa dopo il ballo, aria della notte. Loro hanno amici a cui parlare, noi nessuno. O l'uomo vuole quel che non gli si vuol dare, o c'è qualche donna pronta a darti una coltellata. Non mi piace questo in una donna, non c'è da meravigliarsi che ci trattino come ci trattano. Siamo una banda di troie. Credo che sono tutte le noie che abbiamo che ci rendono così stizzose. Non sono una di quelle. Avrebbe potuto dormire qui sul sofà, nell'altra stanza. Mi dà l'idea sia ombroso come un ragazzo, così giovane, 20 anni appena. Nella stanza vicina mi avrebbe sentita sul vaso. Arrah, che male c'è! Daedalus. Chissà se è come quei nomi di Gibilterra. Della Paz, della Gracia. Che razza di nomi avevano? Padre Vilaplana di Santa Maria, che mi dette il rosario. Rosales y Orelli nella calle, la siete revueltas e Pisimpo. E Missis Opisso in Governor Street. Oh, che nome! Io mi andrei a buttare a fiume se avessi un nome così. Oh Madonnina, e tutti quei pezzi di strada, la rampa Paradiso, la rampa Bedlam e la rampa Rogers, la rampa Cratchit e gli scalini del passo del diavolo. Beh, non è colpa mia se sono un po' squinternata, so di esserlo un pochino. Quant'è vero, iddio, che non mi sento più vecchia di allora. Chissà se ce la farei a sciogliere la lingua per due parole di spagnolo. Como está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Oh, vedi che non mi sono scordata tutto. Credevo di sì. Ma è la grammatica. Il sostantivo è il nome di una persona o luogo o cosa. Peccato che non ho mai provato a leggere quel romanzo che mi prestò quella tignosa di Mrs. Rubio. Era di Valera, coi punti interrogativi rivoltati, uno in su e uno in giù. Ho sempre saputo che avremmo finito con l'andarcene. Io posso dirgli lo spagnolo e lui può dirmi l'italiano. Così vedrà che non sono un ignorante. Peccato che non sia rimasto. Sono sicura che era stanco morto, poveraccio, e aveva bisogno di una bella dormita. Gli avrei portato la colazione a letto con un po' di pane abbrustolito, purché non usassi il coltello, porta male. O se fosse passata la solita donnina del crescione, o qualcosa di buono e di gustoso. C'è ancora qualche oliva in cucina, forse gli piacevano, io neanche vederle. Quando ero ad Abrines potevo far la criada. La stanza sta benissimo da quando ho fatto quei cambiamenti. Vedi, c'era qualcosa che me lo diceva. Avrei dovuto presentarmi da me. Non mi ha mai vista né conosciuta. Buffissimo, vero? Sono sua moglie. O far finta di essere in Spagna, con lui mezzo addormentato, senza aver la più pallida idea di dove sia. Dos huevos estrellados, signora. Dio mio, che idee pazze mi saltano in mente delle volte. Ci sarebbe stato da divertirsi un sacco se fosse rimasto da noi. Perché no? C'è quella stanza vuota al piano di sopra. E il letto di Milly nella stanza di dietro. Potrebbe scrivere e studiare là, a quel tavolino, tanto per quel che lo usa lui per scribacchiare. E se vuol leggere a letto la mattina, come me, lui può preparare la colazione per due come la prepara per uno. Credo che non prenderei per pensionante il primo che capita per far piacere a lui. Anche se ha preso per caso una caserma come questa qui. Mi piacerebbe fare una bella chiacchierata con una persona colta e intelligente. Bisognerebbe che prendessi un bel paio di pantofole rosse, come quelle che vendevano quei turchi col fez, oppure anche gialle, e una bella veste da camera semi-trasparente. Ne ho un bisogno estremo. Ho una matinée fior di pesco come quella di tanto tempo fa, da Walpole, solo 8 scellini e 6 pence. Ho 18 scellini e 6 pence. Gli darò un'altra occasione. Mi alzerò presto la mattina. Ne ho piene le tasche di questo vecchio letto di Cohen, in ogni caso. Potrei andare al mercato a vedere la verdura, i cavoli, i pomodori e le carote e tutta quella splendida frutta che arriva, bella fresca. Chissà chi sarebbe il primo uomo che incontrerei. Van proprio a caccia di questo la mattina, lo diceva Mamie Dillon, e anche la notte sia per questo. Era il suo modo d'andare a messa. Mi piacerebbe una bella pera sugosa, di quelle che si sciolgono in bocca, come quando mi venivano le voglie. E poi gli scaraventerei le uova a letto e il tè in quella sua tazza salvabaffi che gli ha dato lei per fargli diventare la bocca anche più grande. Io dico che gli piacerebbe anche la mia panna. So io quel che farò. Andrò avanti e indietro, allegra non troppo, cantando un po' ogni tanto mi fa pietà Masetto. Poi comincerò a vestirmi per uscire. Presto, non son più forte. Mi metterò la mia camicia migliore e le mutande. Facciamogli vedere qualche cosina, in modo da fargli rizzare il cinci. E non glielo manderò a dire, se è questo quello che vuole, che sua moglie si faccia fottere, sì, e fottere fino al collo, porca miseria, non da lui 5 o 6 volte, senza scender di sella. Oh, ecco il segno della sua broda sul lenzuolo pulito. Non mi voglio neanche prendere la briga di levarlo col ferro caldo. Dovrebbe esserne soddisfatto, se non ci credi, toccami la pancia, a meno che non lo faccia star lì, ritto, e farmelo infilare. Ho quasi voglia di raccontargli tutto per filo e per segno e di farglielo fare davanti a me. Ben gli sta, è tutta colpa sua se sono un'adultera, come diceva quello là in loggione. Oh, quanto chiasso! Se fosse tutto qui il male che facciamo in questa valle di lacrime, lo sai Dio che non è poi un granché. Tutti lo fanno, solo che non si fanno vedere. Io penso che questo è quel che si pensa ci sta a fare una donna. O lui non ci avrebbe fatto come ci ha fatto, così attraenti per gli uomini. Poi, se vuol baciarmi il sedere, mi spalancherò le mutande e glielo spiattellerò in faccia, grosso al naturale. Mi ci può infilar dentro la lingua per 7 miglia, già che c'è dalla parte marrone. Dopo gli dico che voglio una sterlina o magari 30 scellini. Gli dirò che voglio comprarmi della biancheria intima. E se me li dà, beh, non sarà così cattivo. Non glieli voglio spillare tutti come fanno le altre. Avrei potuto benissimo scrivermi più di una volta un bell'assegno, metterci il suo nome per un paio di sterline, quando si è dimenticato di chiuderlo. Tanto non li spende. Me lo farò venire sul di dietro, purché non mi sporchi le mutande buone. Oh, mi pare non ci si possa nulla. Farò l'indifferente, una o due domande, capirò subito dalle risposte. Quando è in queste condizioni non tiene niente per sé, lo conosco a menadito. Stringerò bene il sedere, mollerò qualche parolaccia, snasa culo, leccami la merda, o la prima pazzia che mi viene in testa. Poi gli suggerirò di sì, ho un momento, ragazzino, tocca a me. Sarò allegra e cordiale per l'occasione. Oh, mi scordavo, questo accidente, sangue del diavolo. Buah, non si sa se ridere o piangere. Siamo un bel misto di mele e susine, no? Mi dovrò mettere la biancheria vecchia. Tanto meglio, sarà più stuzzicante. Non saprà mai se è lui che l'ha fatto oppure no. Ecco, il primo vecchio straccio che capita per te va bene. E poi me lo pulirò di dosso, come un pezzo di merda. Sua omissione. E poi uscirò. Lo lascerò a guardare il soffitto. Ora, dove è andata? Farmi desiderare. Non c'è altro mezzo. 2:15. Che ora bestiale. Mi dà l'idea che in Cina si stanno alzando a quest'ora e si pettinano i codini per la giornata. Tra poco le monache suoneranno l'Algerus. Non c'è nessuno che vada a disturbare i loro sonni, se non qualche prete per le funzioni della notte. La sveglia di quelli accanto al primo chicchirichì si fa uscire il cervello a forza di far fracasso. Guardiamo un po' se riesco a addormentarmi. 1, 2, 3, 4. 5. Che razza di fiori sono quelli che hanno inventato? Come le stelle. La carta da parati di Lombard Street era molto più carina. Quel grembiule che mi ha dato assomigliava un po', solo che l'ho portato solo 2 volte. Meglio abbassare la lampada e provare ancora in modo da alzarsi presto. Voglio andare da Lambol là, vicino a Finlater, e farmi mandare dei fiori da mettere per casa. Nel caso lo portasse qui domani, cioè oggi. No, no, il venerdì porta male. Prima voglio fare un po' di pulizie. La polvere sembra che si ammucchi mentre dormo. Poi un po' di musica e qualche sigaretta. Posso accompagnarlo. Prima devo pulire i tasti del piano col latte. Cosa mi devo mettere? Porterò una rosa bianca. O quelle briuscine di Lipton. Mi piace l'odore di un bel negozio di lusso a 7 penny e mezzo la libra. O quelle altre con le ciliegine e lo zucchero rosa, 11 pence. Un paio di libbre di quelle. E poi una bella piantina in mezzo alla tavola. Si trova a minor prezzo da un momento dove le ho viste. Non è mica molto. I fiori mi piacciono, vorrei che la casa traboccasse di rose. Dio del cielo, non c'è niente come la natura. Le montagne selvagge, poi il mare e le onde galoppanti. Poi la bella campagna. Con i campi di avena e di grano e ogni specie di cose e tutti quei belli animali in giro ti farebbe bene al cuore veder fiumi, laghi e fiori, ogni specie di forme, odori e colori che spuntano anche dai fossi, primule e violette. È questa la natura. E quelli che dicono che non c'è un Dio, non darei un soldo bucato di tutta la loro sapienza. Perché non provano loro a creare qualcosa? Gliel'ho chiesto spesso. Gli atei, o come diavolo si chiamano, vadano e si lavino un po' prima, e poi strillano per avere il prete quando stanno per morire. E perché? Perché? Perché hanno paura dell'inferno, per via della loro cattiva coscienza. Ah, sì, li conosco bene. Chi è stato il primo nell'universo, prima che ci fosse qualcun altro che ha fatto tutto? Chi? Ah, non lo sanno, e nemmeno io. Eccoci, tanto vale che cerchino di impedire che domani sorga il sole. Il sole splende per te, disse lui quel giorno, che eravamo stesi tra i rododendri, sul promontorio di Hoth, con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta. Il giorno che gli feci fare la dichiarazione, sì, prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotto all'anice. Era un anno bisestile, come ora, sì, 16 anni fa. Dio mio, dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato. Sì, disse che ero un fior di montagna. Sì, siamo tutti fiori allora. Un corpo di donna. Sì, è stata una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua. E il sole splende per te oggi. Sì, perciò mi piacque. Sì, perché vidi che capiva, o almeno sentiva cos'è una donna. E io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo. E gli detti quanto più piacere potevo per portarlo a quel punto, finché non mi chiese di dir di sì. E io da principio non volevo rispondere. Guardavo solo in giro il cielo e il mare. Pensavo a tante cose che lui non sapeva, di Mulvey e Mr. Stanhope e Esther e papà, il vecchio capitano Groves e i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina, come diceva loro, sul molo. E la sentinella davanti alla casa del governatore, con quella cosa attorno all'elmetto bianco, povero diavolo, mezzo arrostito. E le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e coi pettini alti. E le aste la mattina, i greci e gli ebrei e gli arabi e il diavolo chissà altro da tutte le parti d'Europa. E Duke Street e il mercato del pollame, un gran pigolio davanti all'Herbie Sharon e i poveri ciuchini che inciampavano mezzi addormentati. E gli uomini avvolti nei loro mantelli, addormentati all'ombra sugli scalini, e le grandi ruote dei carri dei tori, e il vecchio castello, vecchio di 1000 anni, sì, e quei bei mori, tutti in bianco e turbanti, come re, che ti chiedevano di metterti a sedere in quei loro buchi di botteghe, e ronda con le vecchie finestre delle posadas. Due fulgi di occhi celava l'inferriata perché il suo amante baciasse le sbarre. E le gargotte mezzo aperte la notte, e le nacchere, e la notte che perdemmo il battello ad Algeciras, il sereno che faceva il suo giro con la sua lampada, e quel pauroso torrente laggiù in fondo. Oh, e il mare, qualche volta cremisi come il fuoco, e gli splendidi tramonti, e i fichi nei giardini dell'Alameda, sì, e tutte quelle stradine curiose. E le case rosa e azzurre e gialle, e i roseti e i gelsomini e i gerani e i cactus e Gibilterra da ragazza, dove ero un fior di montagna, sì, quando mi misi la rosa nei capelli, come facevano le ragazze andaluse. Oh, ne porterò una rossa, sì, e come mi baciò sotto il muro moresco. E io pensavo, beh, lui ne vale un altro. E poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora, sì. E allora mi chiese se io volevo, sì, dire di sì, mio fior di montagna. E per prima cosa gli misi le braccia intorno, sì, e me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato, sì. E il suo cuore batteva come impazzito. E sì, dissi, sì, voglio.